America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Ai nostri microfoni oggi abbiamo Staffan de Mistura, l'alto rappresentante del segretario generale delle Nazioni Unite in Afghanistan, come dire, la massima autorità, in qualche modo l'equivalente politico multilaterale della parte militare del generale Petraeus che guida le truppe alleate. Ieri l'ambasciatore de Mistura ha parlato al Consiglio di Sicurezza, c'è stato poi un dibattito di 3 ore al quale ha partecipato, ha illustrato la situazione in Afghanistan. Lo abbiamo raggiunto qui a New York al telefono. Buongiorno ambasciatore de Mistura. Buongiorno a lei, buongiorno a lei. Diciamo intanto che l'ambasciatore de Mistura è italiano, è italo-svedese, quindi diciamo ha un'anima e una natura italiana, quindi il suo anche italiano, un passaporto italiano è un italiano perfetto. Certo. Allora, abbiamo avuto delle notizie di attacchi concentrici dei droni, c'è stata un'escalation per distrarre Al-Qaeda da una serie di possibili attacchi terroristici che stavano complottando in Europa, in Gran Bretagna, in Francia, in Germania in particolare. Ecco, è vero? Cosa le risulta? Posso dire questo, che vedremo in futuro un aumento ulteriore di pressione militare, sia sotto forma di droni, che di forze speciali, che di iniziative militari nelle zone Kandahar. Queste erano annunciate e preannunciate, quindi non dobbiamo sorprenderci. Come non dovremmo sorprenderci nel vedere dei contrattacchi o dei tentativi contrattacchi da parte dell'altra parte dei talibani, per poter in qualche maniera marcare da parte loro il fatto che questa pressione ha o meno effetto. Questo purtroppo fa parte sempre di quel periodo in cui ci sono le negoziazioni calde, più o meno. Ecco, dalla Gran Bretagna alti funzionari del Dipartimento di Stato, del Ministero degli Esteri, hanno confermato di essere stati in stato d'allerta per il pericolo di un attacco terroristico. A Parigi la Torre Eiffel è stata sfollata 2 volte, in Germania tensioni uguali. Ecco, c'è anche l'Italia in questa situazione, secondo lei? Quando vari paesi europei sono in stato d'allerta è giusto che lo siano tutti, perché i terroristi non fanno scelte logiche a volte e lo fanno cercando di cogliere qualcuno di sorpresa. Ecco, come riesce secondo lei a pianificare delle cose di questo genere Al-Qaeda, Osama Bin Laden, nel momento in cui sono sotto attacco? Come funziona questa macchina che poi riesce a muovere delle operazioni terroristiche? Lei mi chiede delle domande veramente imprevedibili ed francamente non lo sappiamo. La prova è che Al-Qaeda continua ad essere attiva perché utilizza ovviamente dei sistemi non facili da essere detected, in poche parole. Forse usano gli stessi pizzini che vengono usati in alcune parti d'Italia in alcuni periodi da parte di alcuni personaggi, in poche parole non tecniche e diciamo tecnologiche. Veniamo di nuovo all'attacco che c'è stato dei droni in Pakistan. 21 attacchi in 24 giorni è un record e abbiamo avuto notizia oggi che c'è stato un successo in qualche modo, perché fra i vari morti, si parla di 100 morti, ma 3 in particolare erano personaggi chiave: Sheikh Fateh al-Misri, che è il numero 3 di Al-Qaeda, Abu Atta, che è uno dei principali esperti di esplosivi di Al-Qaeda, e Abdullah Omar al-Qaryashi, che coordina i combattenti arabi di Osama Bin Laden in Afghanistan. Dunque sono dei personaggi chiave. Lei li conosceva, li seguivate? Erano dei personaggi che la preoccupavano? Sono ed erano personaggi importanti. E in questo senso, certamente, se queste notizie sono confermate, sono un colpo duro. Non va neanche mai dimenticato che queste strutture hanno una capacità di rinnovarsi abbastanza veloce. Ecco, una delle osservazioni che veniva fatta è che in effetti poi ci sono subito i rimpiazzi, ma che però non sono ugualmente preparati come quelli che sono andati, quindi si guadagna tempo. Può essere questo una parte della strategia militare degli alleati? Lo può essere, ma deve riconoscere anche il fatto che se vengono dei più giovani sono anche in qualche maniera più inesperti, ma anche molto più impulsivi. E di conseguenza ci sono dei svantaggi che uno può trovare anche in questo. C'è la grande manovra di attacco su Kandahar, che è una delle battaglie cruciali nell'escalation americana e del generale Petraeus. Secondo lei in che termini proseguirà questo attacco e quanto durerà? Credo che non lo sappia neanche chi organizza l'attacco. Una cosa sulla quale invece stanno focalizzandosi, da quello che è stato indicato da loro stessi pubblicamente, è che questo non mira a conquistare un territorio, ma mira piuttosto a cambiare la percezione del momentum, in poche parole, del fatto che i talebani pensino o facciano pensare o diano l'impressione di avere l'iniziativa, in poche parole togliere l'iniziativa. Tutto questo affinché si arrivi a un certo momento a una discussione politica. Ieri in un attacco da parte dei talebani è stato ucciso il vice governatore nella provincia di Ghazni e Karzai ha pianto, oggi ha ricordato questo personaggio che gli era molto vicino, questa provincia è a sud di Kabul, ed è scoppiato in lacrime e ha continuato a piangere, ha detto che secondo lui ha pensato a suo figlio, un bambino, Mirawis, dice spero che possa crescere qui a Kabul, qui in Afghanistan, dobbiamo essere riuniti, non possiamo andare avanti in questo modo. Quindi un'apertura, un gesto di apertura. Ecco, ma com'è Karzai nel suo intimo? Lei l'aveva mai visto piangere? No, non l'ho mai visto piangere, ma è una persona molto umana, è una persona con un forte livello di emotività nei confronti della propria terra e della propria popolazione. Quindi non mi sorprende che abbia preso tanto a cuore in pubblico ed è un momento così tragico. Per chiudere questa prima parte della nostra conversazione, perché i talebani continuano a combattere? Perché vogliono posizionarsi meglio in una posizione negoziale o perché continuano a credere nella loro causa? Secondo me per ambedue i motivi. E per questo motivo è adesso molto importante accelerare anche delle possibilità di un dialogo, nello stesso tempo riconoscere che c'è una fase militare che sta avendo luogo e che in qualche maniera sta procedendo. In poche parole, due binari, come spesso avviene in queste fasi critiche di un inizio, di una fine, di un episodio di guerra. Bene, salutiamo per ora l'ambasciatore Stéphane de Mistura e lo risentiremo domani parlando di questioni più diplomatiche. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America e scriveteci su Facebook ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo parlato di guerra, dunque mi vengono in mente gli U2, Sunday, Bloody Sunday, la sanguinosa domenica di Derry in Irlanda del Nord, quando durante una marcia a favore dell'indipendenza l'esercito inglese uccise 26 dimostranti. Il terrorismo, la guerra, i morti ci sono dappertutto, non solo in Afghanistan. U2, Sunday, Bloody Sunday. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.